se che lo scatto. Comunque. Speriamo che muoiano tutti di questa malattia. Tanto uno già, vabbè, per gli altri. Tipo, un attiro per noi, Pronto? Oh, sì. Ragazzi, le molotov, non lasciatemele qui. Che pronto? Uno stato in mano a pochi, sì. E se lo chiamo stato è perché forse con la testa non sono stato qui. Pensavamo che una rima potesse cambiare lo status quo, e invece no, solo giochi di parole, tele, droghe, tette, ministri, vallette, vicini, assassini, bambini col macete fatti a fette, e tutti zitti, muti come sette. Ma parlerebbe Carlo Giuliani se solo fosse vivo. Anche per questo ho la penna sul foglio su cui scrivo, e ora ti descrivo uno stato alterato senza data di scadenza. Città nella demenza, studio gangster, gente che vive senza la sostanza. In questo stato zero appartenenza, siamo tutti in uno stato alterato di incoscienza. È uno stato, è uno stato, è uno stato alterato di incoscienza. È uno stato, è uno stato, è uno stato alterato di incoscienza. È uno stato, è uno stato, è uno stato alterato di incoscienza. È uno stato, è uno stato, è uno stato alterato di incoscienza. Ma che ci devo fare se siamo a spasso nello stato alterato in cui siamo? E ci è toccato pure il Vaticano. La maggior parte della gente vive nel bisogno, nel regno delle logiche italiote, dissi tempi bui. Di nuovo nel giro non mi fermo mai, mentre mischio il sangue in neri calamai. Le mie rime trapassano i vostri fai, te lo sputo pure live, che non so tu come fai a ingoiare le cazzate di sti quattro bottegai. Uno stato alterato d'incoscienza ormai, dove un politico decide che sarai e farai. Tanto si sa che in Italia è così, dai, sempre più raccomandati che cinesi a Shanghai. Papà conosce tutti, mo ci parla lui. Ma rimaniamo online, contro l'Italia stai, dove tutto è no problem, ok, alright. E l'odio sale, mo so cazzi, sai, perché il nostro suono arriva ovunque stai. Perché spingiamo e non ci fermiamo mai. È uno stato, è uno stato, è uno stato alterato di incoscienza. È uno stato, è uno stato, è uno stato alterato di incoscienza. È uno stato, è uno stato, è uno stato alterato di incoscienza. È uno stato, è uno stato, è uno stato alterato di incoscienza. Il gioco si fa duro, Fazza ND, menti criminali contro il muro, stiamo ancora qui, eh sì. Ricorda, sei sintonizzato su un canale alterato e qualcuno vuole che questo sia il tuo stato, è uno stato alterato sempre più, in cui che mosche, pippa coca, è sempre più di moda alla TV. È uno stato alterato in cui il finto rap vince a Sanremo. È uno stato alterato in cui sei connesso ma sei sempre più scemo. È uno stato alterato, ma la tua mente è l'arma più potente, credici. Questa sera siamo lucidi, conto alla rovescia. 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012. È uno stato, è uno stato, è uno stato alterato di incoscienza. È uno stato, è uno stato, è uno stato alterato di incoscienza. È uno stato, è uno stato, è uno stato alterato di incoscienza. È uno stato, è uno stato, è uno stato alterato di incoscienza. Mi sto chiedendo se la mente criminale sia completamente umana. Io sono convinto che ci sia una ragione se il genere umano è stato elevato al di sopra del livello degli animali. La natura umana è il più grande trionfo dell'uomo, ma è anche la fonte della sua distruzione. Noi tutti tendiamo verso le più nobili aspirazioni e, nello stesso tempo, indulgiamo ai nostri più bassi istinti.